Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, diamo spazio ad una notizia che ha guadagnato le pagine dei quotidiani di oggi. L'avete già ascoltata anche nei nostri GR e riguarda la possibilità di produrre sangue artificiale dalle cellule staminali embrionali. Ne parliamo con la dottoressa Simonetta Pupella, responsabile dell'area medica del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Pupella, grazie e benvenuta. Buongiorno a lei, grazie di questo invito. Vorrei subito chiarire un concetto sulle cellule staminali di cui oggi si parla tanto. Dobbiamo sempre tenere presente la differenza tra le cellule staminali embrionali, quelle di cui abbiamo sentito parlare, dalle cellule staminali adulte, che sono quelle cellule che possiamo trovare nel midollo osseo, nel sangue cordonale, in altri organi come il fegato, la cute, e che come le cellule embrionali sono capaci di differenziarsi e di dare origine anche ad altri tipi di cellule che poi andranno a costituire organi e tessuti differenti. Bene tenere presente questa distinzione. Certamente, dottoressa Pupella. Oltre, ritornando al nostro sangue artificiale, alla ricerca dello studio inglese, oltre a essere prodotto dall'uomo in laboratorio, quindi senza il ricorso alle donazioni, quali altri vantaggi potrebbe avere il sangue artificiale ottenuto dalle cellule staminali embrionali? Allora, lo studio inglese si caratterizza perché è finalizzato a produrre globuli rossi di gruppo 0 negativo. Sappiamo che questo gruppo è quello meno rappresentato nella popolazione generale e quindi è anche quello di cui c'è maggiormente carenza, e dobbiamo dire che è anche il tipo di gruppo sanguigno che viene utilizzato nelle situazioni di emergenza. Quindi un vantaggio di questa ricerca potrebbe essere rappresentato dal superamento ovviamente di queste carenze, dalla possibilità di avere questo tipo di sangue prontamente disponibile soprattutto nelle situazioni di emergenza. Anche il problema della compatibilità relativamente alla differenza di gruppo sanguigno potrebbe essere superato, e quindi questo sicuramente rappresenterebbe un vantaggio. Sappiamo che ci sono pazienti che possono ricevere solo il sangue dello stesso gruppo, e quindi lo zero negativo come sangue universale risolverebbe anche questo tipo di problema. A questo si aggiunge anche la sicurezza, soprattutto sotto l'aspetto delle malattie infettive che si possono trasmettere con il sangue. Bisogna dire che oggi in ogni caso la trasfusione nel nostro paese, ma come in tutto il mondo sviluppato, è assolutamente sicura. Ci sono tutti i mezzi per renderla sicura nei confronti dei germi che ben conosciamo, che già abbiamo identificato. Questo studio, la produzione di questo sangue artificiale, potrebbe dare dei vantaggi di sicurezza rispetto a quegli agenti patogeni, quei germi, quei virus che invece ancora non conosciamo. Dottoressa Pupella, invece per quanto riguarda i limiti? Prima di tutto dobbiamo dire che quando trasfondiamo una unità di globuli rossi ad un paziente, gli diamo circa 3 trilioni di cellule, 3 trilioni di globuli rossi, quindi capite che ogni trasfusione apporta un grossissimo quantitativo di cellule, e non potrebbe che essere così se vogliamo che sia una trasfusione efficace. Quindi il primo problema è la quantità. Un conto è produrre in laboratorio globuli rossi, un conto è garantire una produzione su scala industriale di elevatissimi quantitativi di queste cellule. Si pone subito un problema di costi, ovviamente, certo, ma anche un problema della possibilità che queste cellule siano effettivamente stabili, che effettivamente si verifichi la compatibilità con i pazienti. Quindi diciamo che questo è uno studio ancora in fase estremamente precoce e ancora non ha assolutamente risolto tutta una serie di problemi che richiederanno sicuramente tanto tempo. Dottoressa, comunque la produzione di sangue artificiale fa parte di un piano di ricerca, ci sono in corso altri studi sull'applicazione delle cellule staminali adulte. Assolutamente, assolutamente questo filone non è un filone di ricerca nuovo. Moltissimi ricercatori internazionali stanno lavorando in questo ambito, ci sono studi americani, ma ci sono anche studi italo-americani, anche presso l'Istituto Superiore di Sanità è in corso uno studio in collaborazione con gli americani proprio sulla possibilità di produrre globuli rossi a partire però dalle cellule staminali adulte e in modo particolare quelle che si trovano nel sangue periferico e nel sangue cordonale e che in qualche modo sono già orientate a fare questa funzione, cioè a produrre gli elementi del sangue. Questi studi sono ancora in una fase ovviamente sperimentale, ma non ci sono assolutamente evidenze scientifiche che questo filone di ricerca rispetto a quello delle cellule staminali embrionali possa avere una minore efficacia o una maggiore efficacia. Entrambe i filoni di ricerca sono in fase precoce. Dottoressa Pupella, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi dell'invito di nuovo. Grazie. Buona giornata. E adesso andiamo subito a sentire i titoli del nostro sommario. Mano, se ti fa male, chiamaci. Giornata mondiale contro la tubercolosi. Mudra, gesti di benessere. Ci aiutano a comunicare e parlano di noi a volte troppo, a dir la verità, perché il loro aspetto rivela più del viso e di altre parti del corpo la nostra età. Bene che parlino pure, noi faremo altrettanto. Oggi infatti parliamo delle nostre mani e lo facciamo per lamentarcene. Iniziamo da un sintomo molto fastidioso e comune, il dolore. Chiamateci anche se a farvi male è proprio la punta del mignolo e da lì, come il proverbio insegna, prendetevi, allargatevi al braccio. Forse sarà necessario occuparsi anche di lui perché alcuni dolori della mano arrivano da lontano, ma noi abbiamo qui in studio un ospite che ci aiuterà a fare chiarezza, ci darà delle indicazioni e dei consigli, il dottor Ugo Da Catra. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Il dottor Da Catra è chirurgo della mano all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Allora, dottore, partiamo dal dolore. Poi andremo oltre perché in molti casi, oltre che dolenti, le nostre mani possono essere gonfie, avere difficoltà a muoversi, ad afferrare e a stringere. Ma andiamo per gradi. Ci dica lei che cosa serve come indicazione per aiutarci. Perché dolore è un sintomo che, buttato lì, è un po' generico. Sì, effettivamente è un disturbo generico, però è molto importante riuscire a capire il tipo di dolore e chiaramente a riferirlo poi allo specialista quando ci si rivolge a lui per una terapia. Il dolore può essere di vario tipo, naturalmente, e questo è importante riconoscere la differenza. Può essere un bruciore, può essere una pulsazione dolorosa, può essere una fitta dolorosa, può essere un dolore di giorno, può essere un dolore notturno, può essere un dolore che c'è anche a riposo o invece soltanto sotto sforzo. Ecco, già solo queste caratteristiche possono già cominciare a orientare. Esatto. Allora, 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, chiamateci subito, scriveteci al 349 238 6666, perché le mani sono molto importanti. Dicevamo con le mani comunichiamo, gesticoliamo, lo sto facendo, mi sto accorgendo di farlo anch'io in questo momento, e accarezziamo, tocchiamo, e hanno anche un'importante valenza emotiva. Esatto, vero? Si dice infatti che le mani non mentono, tant'è che negli studi psicologici proprio vengono fatti dalla PNL, la programmazione neurolinguistica, si studia più che l'espressività di un soggetto anche i movimenti delle mani, perché uno tende magari, per dire anche se vuole mentire, a mentire magari col viso, ma a tradirsi col movimento delle mani. Questo perché noi tutto sommato siamo più somatici, cioè siamo più fatti di corpo di quello che pensiamo, quindi la nostra mano, che è connessa al nostro cervello in modo assolutamente importante, tant'è vero che l'organo del tatto, che è importantissimo, ha sede appunto nella mano, quindi il senso del tatto è nella mano. La mano svolge una funzione fondamentale nell'uomo ed è quella che permette all'uomo di essere tale, cioè di manifestarsi sia da un punto di vista, diciamo così, emotivo, ma anche da un punto di vista artistico, da un punto di vista pratico, da tutti i punti di vista la mano è coinvolta col nostro cervello direttamente. Avvertiamo più dolore alla mano che in altri punti del nostro corpo? Effettivamente, proprio per questo coinvolgimento? Effettivamente sì, soprattutto nel palmo della mano, in polpastrelli, le zone più sensibili chiaramente sono anche più esposte a percepire anche il dolore in un modo più importante, e soprattutto, ripeto, la valenza emotiva di questo dolore a livello cerebrale in caso di mano ha la sua importanza, cioè non va trascurata decisamente. Quindi noi non vogliamo trascurarla. Nel corso della trasmissione parleremo anche della valenza emotiva della nostra mano, ma arrivano già molti messaggi. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di lamentarsi delle loro mani e devo dire che non c'è che l'imbarazzo della scelta: dolore, gonfiore, rigidità, difficoltà ad afferrare. Alcuni messaggi riguardano già le nocche delle dita che si ingrossano. Ma io vorrei chiederle, dottore, si può in qualche modo fare prevenzione, aiutare le nostre mani ad invecchiare bene, ad non avere problemi? Perché lei sa bene che quando noi abbiamo male alle mani pensiamo subito all'artrosi, ma forse potrebbe essere artrite. Questo è un po' il compito della nostra trasmissione di oggi, cercare di distinguere le due situazioni. Noi le usiamo come sinonimi, in realtà artrosi e artrite sono due cose ben distinte. Sono due cose ben distinte e ben differenti da un punto di vista proprio anche della malattia in sé. L'artrosi è una malattia tutto sommato ad evoluzione, fra virgolette, benigna, cioè ha un'evoluzione lenta e abbastanza ben controllabile, il dolore naturalmente, e i sintomi possono essere trattati in maniera differente. Mentre l'artrite purtroppo ha un'evoluzione invece molto più aggressiva, molto più rapida, e purtroppo coinvolge anche non solo la mano, ma può coinvolgere anche tutto quanto l'organismo. In più la terapia che è necessaria instaurare per curare un'artrite è molto più impegnativa, decisamente, perché la malattia purtroppo è molto più grave, quindi coinvolge anche altri organi, non soltanto il nostro apparato muscoloscheletrico, ma anche tutto l'organismo. Purtroppo l'esordio dell'artrite è talvolta molto simile a quello dell'artrosi. Come si presenta, dottore? E si comincia proprio con un dolore, piccoli dolori, magari dolori persistenti, pulsanti, anche però certe volte urenti, cioè di bruciore, che coinvolgono di solito le articolazioni principalmente della mano, quindi di solito le articolazioni delle dita, ma ancor di più le articolazioni del polso, quindi diciamo le articolazioni che stanno nella zona del palmo della mano. In questa zona compaiono questi ispessimenti, questi dolori, questi gonfiori. Nelle fasi iniziali sono magari leggeri e quindi rimane il dubbio, diciamo così, cosa possa trattare, e allora in quel caso ovviamente sarà lo specialista a rendersi conto se siamo davanti a una forma semplicemente di un'artrosi che sta manifestandosi, oppure invece è un iniziale attacco di artrite reumatoide, e chiaramente la situazione è molto più grave. Sono necessari fare alcuni accertamenti, esami del sangue o anche biopsie, cioè voglio dire piccoli prelievi locali di materiale articolare, per poter fare una con certezza una diagnosi e cominciare una terapia che, se fatta per tempo, è sicuramente efficace. Come sempre. Non si può giocare sulla prevenzione. Purtroppo, per quanto riguarda l'artrosi, ohimè, prevenire la malattia in sé non è possibile, così come purtroppo l'artrite reumatoide non è possibile prevenirla. Si può soltanto cercare di ridurre l'insorgenza dei sintomi, cioè ridurre, diciamo, l'intensità nel caso dell'artrosi, evitando di fare alcune cose o iniziando alcune trattamenti che cercano soltanto di limitare la sintomatologia. Certo. Però purtroppo sull'origine non ci dà buone notizie. Momento non si può fare molto per evitare che insorgano queste patologie in modo certo. Ecco, la familiarità conta, è pesantissimo, sì. il ruolo dei nostri geni. Parlo dell'artrosi, naturalmente, sì, certo. L'artrosi è scritta proprio nei nostri geni, e purtroppo chi è figlio di soggetti artrosici ha una più alta probabilità di sviluppare un'artrosi, sicuramente. Mentre per l'artrite il discorso è più complesso, assolutamente non è detto che chi è soggetto all'artrite reumatoide trasmetta questa patologia direttamente ai propri discendenti. Per fortuna ci sono varie concause, il discorso è molto più complicato, e in ogni caso va riconosciuta e va distinta, perché potrebbe insorgere in qualunque persona comunque. Allora, dolore, ma anche formicolio, difficoltà ad afferrare gli oggetti, a chiudere i barattoli, ad esempio. Ci sono già diversi sms: mi fa male la mano solo quando giro la chiave nella toppa o devo fare forza per impugnare un attrezzo, ad esempio il cacciavite. 45 anni, romano da Verona. Che cosa può essere? Potrebbe trattarsi di una forma di artrosi che interessa l'articolazione trapezio metacarpale, cioè la rizoartrosi, in sostanza l'artrosi della base del pollice. È lì che si presenta in modo diciamo più frequente, diciamo che è il dito più facilmente colpito, per l'esattezza la base del pollice. È abbastanza comprensibile visto che il pollice è il dito più importante della nostra mano. In più viene usato per compiere vari movimenti, non solo i movimenti ma anche la torsione, certo, viene coinvolto molto, e quindi purtroppo si ammala di artrosi con maggiore frequenza. I primi sintomi possono proprio essere il dolore sotto sforzo nel compiere quei movimenti, appunto come avvitare, girare una chiave, che comportano una torsione sull'articolazione e quindi purtroppo insorgono questi dolori. Quindi è il pollice il luogo preferito dell'artrosi della mano? Sì, diciamo che il luogo in cui il sintomo dell'artrosi si manifesta in modo maggiore. Parleremo anche delle indicazioni delle terapie, ma prima andiamo a Brescia perché ci aspetta Alessandro, 824 0024. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ascoltando l'ultima parte dell'intervento penso mi abbiate già risposto, perché il mio problema è simile a quello dell'ascoltatore di Verona. Sì. Praticamente ho ad un indolenzimento di tutta la mano e proprio la base del pollice all'interno del palmo della mano, dove ho maggiori problemi, mi fa effettivamente, mi vuole abbastanza, ecco. Alessandro, chiedo io per lei al dottore se ci può dare delle indicazioni. Cambia se questo pollice fa male quando lo muoviamo o invece anche quando stiamo fermi? E quali sono le indicazioni arrivate alla diagnosi se il medico ci dice che l'artrosi l'ha scelto? Dunque, allora, per fare una diagnosi di artrosi naturalmente non basta soltanto il sintomo, perché potrebbe trattarsi anche di una tendinite infiammatoria, quindi voglio tranquillizzare il signore al telefono che non è detto che sia sicuramente una forma iniziale di artrosi, tuttavia potrebbe essere anche un'infiammazione. In ogni caso, per fare la diagnosi occorre una radiografia della mano. Sì. Se il quadro radiologico unito al quadro clinico, le due cose coincidono, effettivamente è probabile che ci siamo per una forma di artrosi della mano. Nel qual caso, se la forma è molto iniziale, si può intervenire con trattamenti, diciamo così, precoci. Quindi l'uso di un piccolo tutore che immobilizza il pollice magari durante la notte oppure in alcune ore del giorno, in modo da mettere a riposo l'articolazione. Serve? Può servire sicuramente a disinfiammarlo nelle fasi dolorose. Dopodiché anche alcuni trattamenti locali, cioè piccole infiltrazioni, cioè sono iniezioni intraarticolari di farmaci antinfiammatori che agiscono molto bene disinfiammando l'articolazione. Non sono curative sulla malattia, attenzione, non è che possono farla passare, però possono attenuare i sintomi e far stare meglio una persona e guadagnare il tempo per far sì che l'artrosi evolva il più lentamente possibile, chiaramente. Andiamo a Roma, ci aspetta Marcello, buongiorno. Buongiorno. Come stanno le sue mani, Marcello? Ma, diciamo bene. Il problema è che magari io, facendo un lavoro molto manuale, non penso che sia artrosi. Praticamente con una posizione tipo tenendo lo sterzo della macchina, mi si addormento completamente, cioè non riesco a tenere lo stesso. E questo quasi, diciamo, giornalmente. Mentre, diciamo, anche una volta al mese, la mano destra mi si addormentano le ultime tre dita, diventano bianche e non riesco a muoverle proprio, le ultime tre dita. Cioè pollice e indice rimangono normali, rotte. Pollice e indice attivi e le altre dita un po' addormentate. Questo però ogni tanto, una volta al mese. Dottor Da Catra, che cosa può essere questo formicolio, questo addormentamento? Sì, è probabilmente un problema che non parte dalla mano, ma parte più in alto. Quasi sicuramente un problema di cervicobrachialgia, cioè parte dalla cervicale. E esiste un punto probabilmente in cui qualche fascio nervoso viene schiacciato, cioè compresso, in base a certe posture. Lui ha detto giustamente quando guida. Sì. Quando guida, perché si tengono le braccia un po' sollevate e quindi si favorisce l'insorgenza di questo, di questa, diciamo così, sintomatologia, che è sostanzialmente una irritazione, in questo caso del nervo ulnare, che è il nervo che coinvolge le ultime dita della mano, ma che quasi sicuramente adesso è chiaro, non sì, si può certo. dire telefonia, però molto probabilmente parte a livello alto, cioè a livello del collo. Quindi cosa quindi, potrebbe in fare? Questo un'occhiatina alla cervicale. È un'occhiata alla cervicale, una visita, perché potrebbe anche trattarsi semplicemente di una condizione posturale, cioè di correggere la sua posizione nella guida o in quando sta anche seduto in ufficio, se uno sta in ufficio seduto a lungo e ha questi disturbi, per ridare con una corretta postura e far scomparire il sintomo, che probabilmente non è una cosa grave. Comunque per accertarlo meglio bisogna fare alcuni accertamenti, in questo caso una risonanza magnetica cervicale, oltre che una radiografia, per poter centrare bene il problema, naturalmente. Andrea da Genova ci chiede: far scrocchiare le giunture delle dita può essere pericoloso e ne sento frequentemente il bisogno, devo dire anch'io. E invece no, non è assolutamente possiamo? Un problema. Questo scrocchio che compare non è altro che la presenza di piccole bollicine d'aria all'interno dell'articolazione che si possono formare. Queste piccole bollicine d'aria, quando vengono schiacciate, scoppiano e fanno sì, questo scrocchio che si, diciamo che si ripercuote. Non è assolutamente come uno sbadiglio dell'articolazione, non è più nemmeno che uno sbadiglio, cioè non è assolutamente un problema, non fa male assolutamente in nessun senso, quindi uno se vuole farlo, se non diventa certo poi un tic nervoso eccessivo non è un problema per l'articolazione. Siamo tornati insieme, noi oggi ci occupiamo delle nostre mani che a volte sono doloranti, abbiamo problemi a chiudere, ad afferrare alcuni oggetti, 824 0024 se volete intervenire in diretta, ma oggi è la giornata mondiale contro la tubercolosi. È un'infezione grave che torna a preoccupare i medici per la diffusione di nuovi ceppi che risultano essere resistenti ai farmaci. Ma ci sono delle novità. In linea con noi abbiamo la professoressa Riccardi, docente di microbiologia presso l'Università di Pavia, è responsabile di un progetto europeo il cui obiettivo è proprio quello di trovare nuove molecole per le forme di tubercolosi multiresistenti ai farmaci. Professoressa Riccardi, buongiorno, grazie di essere buongiorno. Con noi. Buongiorno a lei. Professoressa, la tubercolosi torna a fare paura, perché? Essenzialmente per tre motivi: perché sono comparsi dei ceppi multiresistenti agli antibiotici, perché c'è una stretta correlazione tra la tubercolosi e la malattia da HIV, in quanto i pazienti affetti da HIV hanno le ridotte difese immunitarie e quindi sono sensibili ad acquisire molte infezioni, tra cui la tubercolosi, e come terza spiegazione il fatto del problema dell'immigrazione, in quanto gli immigrati spesso provengono da paesi in via di sviluppo e quindi possono portare con sé questa malattia che deve essere prontamente curata. Come anticipavo, c'è una ricerca molto interessante a cui ha partecipato il suo gruppo e i risultati sono stati pubblicati su Science, che ci porta buone notizie proprio per queste forme di tubercolosi multiresistenti. Quindi si trovano nuove molecole, professoressa. Il dottor Vadim Makarov ha disegnato una nuova classe di molecole efficaci contro la TBC che si chiamano benzotiazinoni. All'interno del gruppo europeo parecchi laboratori hanno lavorato su queste molecole, compreso il nostro laboratorio, con ciascuno un obiettivo molto particolare. Primo, valutare l'efficacia di queste molecole contro il patogeno della tubercolosi che si chiama Mycobacterium tuberculosis o più noto come bacillo di Koch. Secondo, valutare la tossicità di queste molecole certo. nei confronti delle nostre cellule. Terzo, cercare il bersaglio terapeutico di queste molecole che abbiamo trovato noi qui a Pavia. Quarto, valutare la capacità terapeutica di queste molecole su animali infettati che sono poi i topi. Quindi, risolti tutti questi problemi, la molecola è efficace sia sui topi che in laboratorio, non è tossica e conosciamo il meccanismo d'azione, sappiamo che blocca la crescita del patogeno perché interferisce con una molecola chiave della parete del patogeno, la parete può essere vista come il muro della casa che protegge la casa e quindi si spiega perché è così efficiente nel trattare le infezioni da tubercolosi. Perché? Perché praticamente non ha più difese. Praticamente questo batterio quando cresce e cerca di costruirsi la sua parete, cioè il suo muro di protezione, questa molecola interferisce con un enzima coinvolto nella sintesi del muro, nella sì. sintesi della parete. Quindi una casa senza muro, ecco, e quindi facilmente aggredibile, vero? Facilmente aggredibile. In più questo farmaco funziona sui multiresistenti e sui i ceppi XDR estremamente resistenti, quindi di qui la grossa attenzione. È stata lanciata questa scoperta, questa pubblicazione anche su riviste internazionali tipo Le Figaro Roma, anche sul Wall Street Journal, anche su riviste straniere, proprio perché c'è molta attenzione nei c'è molta attenzione malattia. E infatti io sono molto contenta che sia lei proprio a raccontarci i risultati di questa ricerca qui a Radio 24. Professoressa, io la ringrazio, complimenti, buon lavoro. Grazie a voi. E torniamo ad occuparci delle nostre mani. 800 24 00 24, componete il nostro numero al 349 238 6666, se preferite mandarci un messaggio. Barbara ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, il problema è iniziato circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Io ho partorito con parto cesareo, ho fatto un epidurale. Allora, l'ultimo mese della gravidanza, di notte mi hanno cominciato ad addormentarsi le mani, dolore fortissimo alle dita, alla mano. Dopo il parto sono stata operata al tunnel scalpale, pensando fosse quello il problema, per cui sono stata operata ad una sola mano, ho risolto l'addormentamento della mano. Lì per lì, sinceramente, il dolore era diminuito, ma dopo qualche mese, niente, è sorto tornato il dolore alla mano, al polso, e a tutte e due le mani, a tutte e due i polsi, fino su al braccio, addirittura sotto l'ascella. Per cui ho risolto l'addormentamento della mano, sì, con l'operazione, però il resto no. Grazie Barbara. Allora Barbara dice un po' sì, l'addormentamento, certo, ma il dolore rimane. Sì, l'intervento per il tunnel carpale è stato fatto perché la sintomatologia effettivamente corrispondeva a quella di un tunnel carpale, e peraltro nell'ultima parte della gravidanza le donne particolarmente possono soffrire di tunnel carpale. Questo può anche regredire spontaneamente una volta che è terminato, diciamo, anche il periodo dell'allattamento, quindi una volta che la cosiddetta tendenza al trattenimento dei liquidi che avviene durante la gravidanza e durante il periodo dell'allattamento, e che quindi corrisponde a un edema dei tessuti, cioè a un gonfiore generalizzato, sì, regredisce. Quindi si potrebbe aspettare per sì, le mamme in attesa. Per che le mamme in attesa, negli ultimi mesi non preoccuparsi se ci sono questi disturbi, possono essere curati semplicemente usando dei diuretici per cercare un attimino di ridurre gli edemi che possono essere un po' eccessivi, e anche nel periodo dell'allattamento non spaventarsi assolutamente se la cosa è abbastanza controllabile. Naturalmente non si possono prendere farmaci in questo periodo, però se la cosa è tollerabile, direi che aspettiamo. Si può aspettare, cercare di resistere per non rischiare poi di fare un intervento che talora può anche non essere efficace. E infatti il dolore, il formicolino è andato via, ma il dolore rimane. Il dolore cosa rimane. Può essere questo dolore che cammina sino all'ascella, dottore? Ci sono tante possibilità, sinceramente, però di solito l'esame elettromiografico, che è un esame neurologico che viene fatto appositamente per valutare le condizioni diciamo dei nervi dell'arto superiore, può essere di grande aiuto. Quindi se dall'esame elettromiografico che era stato fatto risultava una sindrome del tunnel carpale, probabilmente è stato fatto un intervento che al momento sembrava essere forse risolutivo. Certe volte però sono associate due patologie, quindi contemporaneamente una patologia dell'arto superiore, quindi che coinvolge il collo e poi si irradia nella mano, e anche contemporaneamente un tunnel carpale. In questi casi, quando ci sono queste situazioni, il trattamento più adeguato a questo punto è un trattamento fisioterapico, cioè mettersi in mano a un buon fisioterapista che diciamo insegna una ginnastica di correzione posturale per evitare che questo dipenda da una cattiva posizione della mamma che allatta o proprio degli sforzi che questa donna, certo, compie. Abbiamo dedicato proprio una puntata intera alla postura, che potete riascoltare andandola a cercare nel nostro archivio. Francesco, buongiorno da Bologna. Buongiorno a voi. Ci racconti, Francesco? Dunque, io ho 31 anni, quindi non so se già a questa età si possa soffrire di artrite o di artrosi, eccetera. Però la mano sinistra è dolente, credo, nella parte che si chiama, diciamo, la parte iniziale delle dita. Sì. E sia che si stringa il pugno intorno a se stesso, piuttosto intorno a un oggetto, quindi apertura di un barattolo, semplicemente afferrare con forza, con decisione, qualunque cosa. Ed è una cosa che è iniziata un paio di mesi fa e non sembra degenerare, non sembra terminare. Non sembra, non passa. Dottor Dacatra. Mi pare di capire che erano tutte le dita coinvolte, sì, in questo, quindi già questo può far pensare a una forma di tipo tendinitico, quindi a una tendinite che esordisce proprio in questa maniera. Può essere anche una semplice patologia infiammatoria aspecifica, voglio dire aspecifica significa che non è collegata a una malattia più grave che può provocare provocarla, quindi una condizione semplicemente irritativa. Certe volte può essere anche l'inizio di una tendinite che poi può evolvere in modo cronico fino a provocare il blocco parziale del movimento delle dita, e in questo caso naturalmente va curato. Come orientarsi in questo caso? Beh, chiaramente una visita per forza è essenziale. Bisogna fare un saltino dal medico. Per forza, per poter capire che esattamente cosa c'è dietro a questo sintomo un po' particolare, diciamo. Andiamo nella provincia di Bari, ci aspetta Liliana. Liliana, benvenuta, grazie. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Siete sempre molto che gentili e quindi di grande aiuto. Dovere, Liliana, mi dica. Dunque, io ho un problema alle mani molto serio, ho perso la sensibilità alle prime tre dita della mano destra, dovrei operarmi del tunnel carpale, ma sono un po' titubante perché ho paura, perché purtroppo non è che abbiamo una mano di ricambio. Liliana, poi andare sotto i ferri non piace mai a nessuno, infatti teniamoli qua in studio a parlarci i medici, ma dottor Dacatra, Liliana ha qualche perplessità, il suo problema sono le tre dita. Sì, sono i sintomi classici del tunnel carpale. Come dicevo prima, però, per decidere se si deve fare un intervento o si può temporeggiare, fare altri trattamenti, bisogna fare una visita ovviamente, e una volta che è stato accertato un esame elettromiografico che può confermare la gravità o meno della situazione. Quando la situazione effettivamente diventa importante, e questo lo dice più che altro la sintomatologia del paziente, ma soprattutto l'esito dell'esame, effettivamente l'intervento in sé è un intervento abbastanza semplice, con pochissimi rischi di complicanze. Come post-operatorio come siamo? Portiamoci avanti per Liliana. Vinta la paura dell'intervento, cosa le aspetta? 15 giorni di convalescenza con la mano a riposo normalmente. Poi c'è la ripresa. Una ripresa che, attenzione, deve essere progressiva, per cui non è che uno può riprendere subito a fare qualunque attività. Può cominciare a usare la mano in modo semplice, non certo per lavori pesanti, però dopo 15 giorni può esserci una ripresa quasi completa, diciamo, della propria attività. Naturalmente i sintomi regrediscono, soprattutto il dolore, quasi immediatamente. La ripresa funzionale invece è un pochettino più lenta, questo sì. Io invece ho spesso dolore alla base del medio della mano destra, ad esempio usando il cambio dell'auto, e sono delle fitte forti, ci scrive Graziano da Milano. Io da balanzone, perché ormai sentendovi sempre parlare, penso al dito a scatto. È possibile? È un iniziale dito a scatto? È probabile. Eccoci, siamo tornati e in linea con noi abbiamo Dorina Vaccaroni. Ciao Dorina. Salve, salve a tutti. Non devo neanche presentarti, ma mi piace perché a me, quando voi siete così bravi, mi sembra quasi di condividere con voi le vostre vittorie, grande campionessa di scherma. Dorina, io ho azzardato una diagnosi, mi sono allargata, come si dice, dopo tante puntate sulle mani. Un nostro ascoltatore ci scriveva: ho male alla base del medio, proprio soprattutto quando cambio in auto le marce. E allora, dato che avevo fatto anche un po' di chiacchiere con il dottor Dacatra, che qua in studio con me, io ho detto: ma potrebbe essere un iniziale dito a scatto di cui tu hai sofferto e di cui sei stata operata. Beh, io diciamo che la mia mano era sicuramente sollecitata più di uno che guida la macchina, perché praticamente tenevo il fioretto in mano 4-5 ore al giorno. E poi un giorno il dito non si alzava più, non si apriva più, mi faceva dolore. All'inizio ho continuato ad allenarmi lo stesso, fasciando la mano e mettendo degli antinfiammatori. Poi mi faceva sempre più male, non aprivo bene la mano, mi dava fastidio, mi si gonfiava. Sono andata a fare una visita a Savona, dove c'era il professor Mantero, che è un esperto di mani, e mi ha diagnosticato un dito a scatto, che poi mi ha fatto un intervento e in giro di un mese sono ritornata come prima, insomma. Certo, a vincere. Però molto doloroso, dottor Dacatra. Sì, può essere doloroso, anche se non è così per tutti, effettivamente, però molto spesso l'esordio è proprio con un dolore in quella zona in cui diceva quell'ascoltatore prima, oppure dopo un po' diventa sempre più doloroso e può comparire il fenomeno della difficoltà a estendere il dito. Ma dall'oggi al domani poi? Dall'oggi al domani proprio no, ma nel giro di pochi giorni può anche succedere, cioè nel senso che questa infiammazione provoca un inspessimento del tendine e questo tendine non riesce più a scorrere bene. Infatti l'intervento consiste nell'andare ad allargare il passaggio di questo tendine per permettergli di nuovo di scorrere come prima. Dorina, l'intervento una passeggiata oppure dopo l'intervento dolore, difficoltà a rimuovere il dito? Sì, l'intervento non è stato doloroso perché l'ho fatto in anestesia totale, per cui non ho sentito niente. A risveglio, diciamo, visto che la mano è un punto dove il tatto, dove ci sono tutte le terminazioni nervose, ho avuto molto male per un paio di giorni, poi col drenaggio, per cui mi hanno pulito bene, è sparito. Diciamo che la rieducazione è stata un po' lenta, perché aprire e chiudere la mano di nuovo non era una cosa semplice, però sicuramente non ho potuto prendere il fioretto subito in mano, ho dovuto fare una serie di esercizi per riprendere la funzionalità totale della mano, però adesso sono perfetta, non ho neanche nessun segno, perché il taglio è stato fatto sul palmo della mano, per cui non ho segni, non ho niente. Ho forse qualche volta, quando cambia il tempo, un po' di dolore, ma è normale, però dopo ho fatto altri 15 anni di scherma senza nessun problema. Assolutamente. Quindi, Dorina, il messaggio che possiamo dare ai nostri ascoltatori che hanno ricevuto una diagnosi e sono lì un po' tentennanti sul da farsi, di rompere ogni indugio, e quindi di, se è il caso, se il medico ha suggerito l'intervento, di affidarsi al chirurgo. Dorina, ne vale la pena? Cioè, per quanto riguarda me, sicuramente l'intervento mi ha subito guarito. Prima con gli antinfiammatori, pomate e fasce, risolveva momentaneamente, ma poi il dolore era persistente. Con l'intervento, che dura credo poco, perché adesso io tecnicamente non dottor so. Dottor Dacatra, adesso rispetto a quando l'ha fatto Dorina, un intervento quanto dura? Un intervento dura al massimo 5 minuti, perché è un intervento molto semplice, con un piccolo taglietto, poi dipende dall'entità, dalla gravità. Si può fare anche soltanto in anestesia locale, comunque, senza bisogno di anestesia generale. Lì dipende naturalmente anche dalla gravità, dalla caratteristica del paziente, anche dalla scelta del paziente stesso, che può preferire non vedere, non sentire, o sì, più invece... Io sarei nella seconda. Dorina, grazie per essere stata con noi, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Allora, noi abbiamo parlato un po' lamentandoci delle nostre mani, ma lo abbiamo fatto per trovare delle soluzioni, per recuperare salute. Adesso impariamo dei gesti con cui le nostre mani ci regalano benessere. Parliamo dello yoga delle mani. In studio con noi ci ha raggiunto Benedetta Spada, insegnante di yoga. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Benvenuta. Allora, lo yoga delle mani, sono sì, i mudra? Sì, esatto. Mudra significa letteralmente sigillo o gesto simbolico delle mani. Sono dei gesti che possiamo utilizzare sempre, in qualsiasi momento della giornata, che ci aiutano a rassicurare anche in qualche modo la mente, riportare la nostra attenzione su ciò che stiamo facendo. Un gesto semplicissimo che possiamo proporre ai nostri ascoltatori quest'oggi viene chiamato Abhaya Mudra, che significa gesto di rassicurazione. È un gesto che viene tra l'altro ricordato in moltissime immagini del Buddha, e possiamo ritrovarlo su molti testi. Possiamo farlo con entrambe le mani o con una sola, solleviamo entrambi i palmi o solo uno, rivolti avanti a noi. Tendiamo, distendiamo le dita delle mani e proprio sentiamo che i palmi in qualche modo è come se spingessero o accogliessero qualcosa, e sostiamo per 4-5 respiri, poi rilasciamo e possiamo ripetere il gesto più volte. Ci aiuta sicuramente, simbolicamente richiama questo gesto di protezione, mi proteggo, mi difendo da qualcosa, ma al tempo stesso lascio entrare qualcosa che può essere utile a portare buone energie. Dottor Dacatra, ha visto? Certo. Lo farà anche lei? Sicuramente. Mi colpisce il discorso del linguaggio simbolico delle mani. Noi tendiamo a dimenticarci spesso, ma questo nella vita quotidiana, quanto il simbolismo delle mani esiste. Nella vita di oggi noi crediamo di non avere un linguaggio simbolico, ma in realtà quando comunichiamo fra noi muoviamo le mani e esprimiamo con le mani i simboli del nostro pensiero, per esempio la stretta di mano, per esempio usare una mano per far accompagnare il discorso. Questo è molto importante, e la ragione di questo rapporto fra mano, yoga e mente è molto chiara. Quello che il nostro corpo esprime si riflette nella nostra mente. Ecco perché è importante una ginnastica yoga per riuscire a riequilibrare la mente, così viceversa, come naturalmente al contrario una mente equilibrata si riflette anche sulla nostra mano. Abhaya Mudra si chiama. Mudra. Sembra, e il nome sembra di un ballo, vero? Di un ballo. Di una località esotica. Una danza delle mani. Invece sono i nostri palmini, esatto, che accolgono o respingono quello che non deve, insomma, arrivare. fare. Allora, io direi che se Benedetta Spada venisse a trovarci ancora domani, potrebbe regalarci un altro gesto di benessere, magari non certamente mudra, magari con un nome meno esotico, ma assolutamente efficace. Allora, appuntamento a Benedetta Spada. Saluto il dottor Dacatra che ci ha accompagnato in questa trasmissione, direi dalla punta dell'indice fino al gomito, salendo sino al addirittura collo, alla scella e al collo. Grazie dottore, intanto vi saluto. Arrivederci. E vi do anch'io appuntamento a domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Non mancate, buonissima giornata da Nicoletta Carbone.